ricordo. Allora, il laboratorio lo possiamo fare su... Cioè, io vi propongo questo, poi ditemi voi. Abruzzo. Si potrebbe fare sul tema della paura. Come funziona la... Siccome in questo periodo... Paura. Senti? Ma ride. Ride. Siamo in un momento buono. Allora, il tema della paura potremmo affrontare. Sì. Come funziona la paura? Cioè, ci dobbiamo fare delle domande sulla paura. Come ci condiziona la paura è una buona domanda. Altre domande? Che cos'è la paura? Che cos'è la paura? Come agisce? Allora, in generale, partiamo così. Allora, lei ha già detto una buona domanda, la ripeti? Io ho paura che se ne vado in bagno. Ah, vai. Sarà già dimenticato. Ecco, cosa ci condiziona la paura? Come ci condiziona la paura? Ok, poi lui ha detto che cos'è la paura. Da dove si trova la paura? Da? Da cosa la provoca? Cosa la prova? Ok. Poi altro? Come? Dove si trova? In quale parte del cervello? Ah. Cioè, come agisce su di noi? Cioè, cosa vuoi dire? Dove si trova? Cioè, dipende, ci sono tante persone... Ah, chi la propaga? Chi la fa, che ne so, se la televisione può essere... Sì. La televisione, ascoltare la televisione se può essere... Diciamo, qualcuno l'ha chiamato il virus della paura, per esempio, sì. Ok, altre domande? Quali sono i sinonimi della parola paura? Fobia. Fobia, giusto. Terrore. Terrore. Lo sto cercando. Oppure? No, ansia. Stress, va bene. Le parole, diciamo, potete anche ragionare così. Codardia. Parole associate. Codardia. Ecco, codardia, coraggio, sono tutte parole che associamo a paura, no? C'hanno una relazione con la paura, sì. No? Anche l'ansia c'ha una relazione con la paura. Sospetto. Sospetto, importante, sì. Sospetto è importantissimo. Poi... Capriccio, sbigottimento, ecco, voi. Prego. No, è un'osservazione sulla paura. Vai. Quando, cioè, la paura può essere una cosa giusta, perché ci serve la paura molte volte. Giusto. Però quando è troppa, si trasforma in odio. Si può trasformare in odio? Sì. Ok. Ecco, allora mi viene in mente questa domanda: che differenza c'è tra allarme e allarmismo? Che differenza c'è tra allarme e allarmismo? Allora, allarme viene da noi, quando noi sentiamo che questa cosa non andrebbe fatta, è sbagliata o altro, ci dà questo allarme sotto forma di paura e ci dice... fai attenzione, non lo fare, eccetera. Cioè, te dici l'allarme serve per proteggerci. Esatto, secondo me sì. Ok. E se invece allarme... l'allarme ti dice stai attento perché può succedere questa cosa, no? Esatto. Ok. E invece l'allarmismo? Invece allarmismo penso che sia più... l'allarmismo secondo me è più essere condizionati da una certa cosa... qualcuno che costruisce un discorso, costruisce un qualcosa e ci condiziona. Cioè, nel senso, sicuramente. Aspetta, non dire la relazione. Condiziona le nostre paure, ecco, più o meno è questo che volevo fare. Okay. Più o meno. Va bene. Sentiamo tu cosa volevi dire. L'allarmismo è tipo come l'allarme deve essere evidenziato perché tra l'altro sta agli altri. È più evidenziato perché? Perché. È più condizionato dagli altri, da chi pensa. Può essere condizionato dagli altri. Okay. E quindi poi condizionato diventa... come? Bene o male? In che senso? Nel bene o nel male? Dipende come facciamo dire a lei. Vabbè, pensaci se ti viene in mente, poi ce lo dici. A meno che non ti è già venuto. No, dipende come faccio, perché se. È tipo una precauzione, ci può anche stare, però poi quando arriva troppo di sobbalzo, tutto insieme. Quando è troppo, dici, va al di là della semplice precauzione. Ok. C'erano altre mani alzate che voleva parlare? Tu volevi dire? No, io dicevo che una cosa che già conosci, quindi già ah, cioè ti dici una cosa che già conosci? Tipo, non so, tipo esempio, facciamo una cosa stupida, c'è un insegnante personale. Sì. Te lo vedi e sai già che vuole di avvicinare. Che è pericoloso, che... Sì, invece tipo essere... parlare, tipo, quando intorno a te senti qualcosa che mi va, però cioè, non sai cosa. Ah, ma aspetta, l'allarme o la paura in questo caso? Tu cosa no, se me lo pensi? Quando è che la paura viene più da... Quando intorno a te senti qualcosa che non va e quindi ti dà già un allarme. Ok. Sì. Però quella cosa che senti non sei di preciso non senti. Potrebbe essere una persona armata o... Certo. Non so, cioè, di sicuro a qualcuno di voi capitava di aver paura nel buio, no? Io proprio quando vado nella mia via in salita di notte ho paura un po'. Ecco. Allora, quando si è nel buio, perché soprattutto anche da piccoli così, ma anche da grandi, si può avere paura. Aspetta, sentiamo... Aspetta, prima stava parlando lui, poi ti do la parola. Prego. Ascoltate lui cosa vi fa venire in mente. Si ha paura di ascoltare, ma perché non si riesce a vedere lo spettacolo che c'è attorno a noi. Si ha paura di sapere. No, aspetta, ragazzi, no, non si sente quello che dice. Vai, ripeti, scusa. Dicevo che la paura del buio non è motivata dal fatto che tu hai paura dell'oscurità, ma più che altro di quello che non riesci a vedere. Potrebbe esserci qualunque cosa. Ecco, questo è interessante perché di questo virus era un virus sconosciuto, no? E allora all'inizio non si sapeva bene che, per esempio, che letalità avesse, che capacità di diffusione potesse avere. Cioè, era sconosciuto, diciamo così, era al buio, va bene, così potremmo dire. Ok, tu volevi dire qualcosa? Perché in generale, natura, tutto quello di cui noi abbiamo paura è quello che non conosciamo. Se conosciamo una cosa, se conosco l'argomento della verità, no, può essere la verità. Però, cioè, noi non sappiamo... Se non sappiamo quello che ci aspetta abbiamo paura. Oppure peggio, se sappiamo che quello che ci aspetta è qualcosa di brutto, ancora peggio. È bello la cosa che lui ha introdotto, la paura a scuola, ne vogliamo parlare? La paura a scuola, allora, la paura che il piccolo di cambi, la paura del muccio. Tanto che ti mangi. Cioè, nel senso, la paura che tu diciamo che è vera la definizione di malattia. La paura dei? Del buio. Del buio, sì. Cioè, nel senso, lei la definisce come tipo virus, malattia. No, no, io mi riferivo al fatto che questo virus che è uscito ora, il coronavirus, all'inizio era un virus sconosciuto. Sì. Non so, non è... sembrava... sarebbe quello più primitivo, okay. Cioè sarebbe quello più pronto di tutti perché all'inizio diciamo che le popolazioni e soprattutto diciamo che era la prima cosa fondamentale, cioè ragazzi, quando uno parla, lo sapete, no? Che se lo ascoltate vi vengono in mente delle cose. Soprattutto è anche un discorso fra anche i mammiferi, cioè gli erbivori hanno paura del buio, invece i carnivori, gli esseri, diciamo. Giusto, perché loro ci vedono anche al buio, no? I gatti al buio hanno la possibilità di vedere. Quindi i datori in generale, invece i mammiferi, cioè gli erbivori, voglio dire, non hanno questa cosa. Sì, certo. Grazie, importante quello. Sentiamo lui che non ha mai parlato. Riguardo al virus. Cioè, secondo me le persone in questo periodo hanno molta paura perché posso dire? Non sanno cos'è. No, a parte che non sanno cos'è, ma proprio perché non c'è una cura per questo virus, le persone hanno ancora più paura. Sì. Cioè, eppure fa meno morti che l'influenza normale. Però le persone hanno paura, secondo me, perché non c'è una cura che possa fermare questo virus. Quindi sale ancora più ansia. Sì, il fatto che sia... Insomma, quando è comparso era un virus sconosciuto, non era studiato. Ci sono due coppie vicine. No, aspetta, voi due però no, date noia così, davvero. Troppo. Dai, fate uno sforzo, venite più vicini e vi mettete qui. Troppo. E semmai alzate la mano anche voi. Dai, Margherita è... No, però ho solo qualcosa nell'occhio che non vedo niente. Allora fate piano, vai. Troppo. Cioè, per esempio... Parlando di allarme e allarmismo, le persone a Livorno ci sono dei supermercati che... Te stai a Livorno? Sì. In uno o due giorni le casse d'acqua e robe del genere erano finite, cioè non c'era più niente. Le persone stanno andate troppo profonde, cioè bisogna stare calmi. Ecco, allora intanto lui ha usato un'altra parola accanto a quelle che avete detto prima, la parola panico. Altre parole che erano venute fuori era terrore, panico, timore, sospetto. Sì, su tutte queste parole, se volete dire qualcosa, le parole che avete... Sentiamo Alessia. Tu hai finito? Sì, sì. Ok. C'è una cosa, cioè, banale, ma io la sera, quando, alle 8:30, 9, faccio un pezzo a piedi con la mia amica per strada perché ho paura di andare da sola, perché quella via, possiamo dire così, non è molto sicura. Non c'è mai... E io... normalmente vado, non ho paura, però lei c'ha paura, ha detto se ogni volta l'accompagno io, perché io sono a montagna, se qualcuno mi dà un po' fa male lungo. Cioè anche una ragazzina andare messa sola fino alle 8:30 per stare, anche timore, cioè una persona che ti sta dietro, che ti cammina, sospettare di quella persona dietro che forse potrebbe fare qualcosa alle 8:30 di sera, non c'è nessuno per strada, paura ce l'hai. Ah, ecco. Ma il fatto che il sospetto come influisce nelle relazioni con gli altri, insomma, il sospetto... Anche questo... la testa. Una alla volta. Sì. Però è anche, cioè, si sentono tanti casi alla televisione, la ragazzina presa, stuprata, uccisa. Sì. È la storia, quando vedi una persona, ti vedi da sola, senza nessuno accanto, che ti aiuti... vedi qualcuno dietro che ti rincorre e ti viene subito il sospetto, ti fai subito un film, perché non hai... ti fai subito un film è interessante, no, perché non hai... Allora, perché ti fai subito un film è questa espressione, ci si può fare questa domanda, ma quello che noi, diciamo, quello che vive nel nostro immaginario, quanto è frutto, per esempio, dell'esperienza reale e di un'esperienza invece, diciamo, artificiale, attraverso la visione di certi film, va bene? Quanto è frutto della realtà o della visione, diciamo, di un'esperienza artificiale che ci guadagniamo guardando certi film, ecco. E poi ricordatevi quell'altra domanda che era venuta fuori, che differenza c'è tra allarme e allarmismo? Ok, c'erano altri che volevano intervenire? Prego. Più che altro quando ti senti nel panico è come se vai appunto in una strada buia e ti fai un immaginario di quello che potrebbe succedere e vai in panico perché non riesci a vedere altro. Cioè magari è un vecchietto che passa, non è nessuno che ti vorrebbe far del male, però rimani chiusa in una scatola. Aspetta. Rimani chiusa in una scatola e non riesci a pensare ad altro, e quindi ti viene il panico. È più che altro la differenza tra la paura, perché poi la paura dopo un po' ti passa, però il panico è nella stessa situazione, è sempre lo stesso. Sì. Non dovete interrompere gli altri mentre parlano, perché quando uno parla, sì, è dentro un flusso di pensieri, no? Te lo interrompi, è brutto. Infatti ci si può chiedere, da quello che tu dici, che rapporto, cioè riusciamo in una situazione di paura molto intensa, che può diventare terrore, a essere razionali, per esempio? Cioè che rapporto c'è? Cioè è come una perdita della razionalità, no? Cioè questi sentimenti così estremamente forti. Sono eccessivi. Ecco, in qualche modo, sapete che la paura, non so se vi è mai successo di attraversare una strada, no? sta sopraggiungendo un'automobile. Sì. Invece di levarci di torno, che facciamo? Rimaniamo paralizzati. Rimaniamo paralizzati. Le capre. Sì. I gatti hanno un metodo diverso. Allora, i gatti sono fanno alzare da soli. Ecco. Perché i gatti. Allora, i gatti, io ho una teoria sui gatti, fanno questo tipo di ragionamento, quando arrivano lo sanno che ci sono le macchine, no? C'è la strada da attraversare, allora loro fanno un ragionamento di questo tipo, più velocemente attraverso la strada, meno probabilità ho di essere beccato, no? Quindi li vedi che, così, però non sono ancora arrivati a capire che magari devono guardare. Tanti arrivano e passano velocissimi. Sì, sì, perché soprattutto quelli che magari hanno rischiato di passare. No, ma poi, aspetta, scusa solo questo. Che la stessa cosa dei gatti succede alla gente che, non so se l'avete visti, tanta gente sta col cellulare così, no? Allora, attraversa la strada e siccome sta guardando in terra vede che ci sono le strisce e dice posso andare. Magari c'è il pullman a 3 metri che sta andando a 70 all'ora, a 50. Ok, ma è a 3 metri, cioè te non è che siccome c'è le strisce e va. Infatti molta gente credo che si estinguerà in questo tipo. In questo modo la specie si evolve. Oppure ci sono quelli che, non so se avete visto sul lungarno, ci sono le strisce pedonali e la fermata prima. Così la gente scende, passa dietro il pullman, ci sono le strisce e si butta sulle strisce. Ma di qua arrivano le macchine, qui c'è il pullman fermo, qui ci sono le strisce. La gente scende dal pullman e percorre le strisce. Non vede chi arriva, quello che arriva con la macchina non vede chi attraversa e succede. Allora, qui c'è una difficoltà. Chi ha fatto le strisce? È un genio. È un genio. Ma è un genio del male. No, ma ho fatto le per spostare la fermata. Ecco, push. Prof, da me c'è questo discorso qui. Sì. Cioè, la fermata dell'autobus, le strisce, e quando passi, guarda. Vabbè, l'altra cosa geniale degli incroci è quando è verde sulle strisce ed è verde anche quelle che ti mancano. Ah, sì, sì, c'è. Sì, c'è per esempio qui sul numero. Ma se hai capito come che c'entra? Ma parlando anche di gatti. Allora, c'era qualcuno prima che voleva parlare. Tu? No, chi? Io. Tu, vai. Ragazzi, attenti, parla. È riguardo la cosa del buio. Prima si parlava dei? Ma più che altro il fatto è che noi esseri umani, nel senso che abbiamo sviluppato, è la vista. E quindi il buio è la cosa che ci disorienta di più. Ma comunque, se un animale. Un animale, cioè tipo di cane, mi sente le cose. Sì, ma bene anche. Sì. Però se è buio già è avvantaggiato, è bravo. Sì. È importante come dice lui, no? Perché se siamo al buio, infatti, non possiamo usare la vista e acuiamo tutti gli altri sensi. Drizziamo le orecchie. Poi se vuoi tornare indietro, basta che fai la cartina, vai, senti la cartina. Ecco, allora cioè, mi viene in mente un'altra domanda che vi volevo fare, ma c'è, perché lui ha parlato di cani, un cane che è più facile che ti morda, un cane che ha paura o un cane che non ha paura? Cioè la paura può portare all'aggressività? Oppure, sentiamo ora cosa dice lui. Una cosa vai. Che lui diceva che noi non possiamo. Se non mi sbaglio, i nostri occhi, se dopo circa 20 minuti che siamo al buio, sviluppano delle particelle che ti fanno praticamente ti cominciano a far vedere i raggi di luce un po' meno evidenti. Sì. E sicché inizia. Si chiama adattamento al buio, sì. E inizia un po' a vedere quello che ti circonda. È vero, sì. Però immaginati uno che ha un certo punto della sua vita in qualche maniera vuoi succedere qualcosa di là che c'è. Sì, vabbè, ora non andare in fase di niente, però dico che sono finali. Sì, no, no, no, non fate tra di voi così, non fate tra di voi così. Chi vuole parlare alzi la mano, c'era lei e poi c'è Alessia. Una alla volta. Vai, c'era Marica. Ok, Alessia. Cioè, a me è capitato. Poi pensaci. A me è capitato, ma non di morte. Sì, certo. Cioè, uno mi veniva da dietro, mi avevo paura, ma lo conoscevo. Ok, lo conoscevo. Ah, okay. Prima da dietro, l'ha fatto così, ciao, boom, io ho fatto una mossa, l'ho messo per terra. No, no. Sì, ma non si apre nessuno. Ma scusa, ma lo sapevi chi era? Chi fosse? No, sì, ma non mi sapevi da dietro così, mentre io sono ascoltando la musica. Ma hai ucciso un innocente. L'ho buttato per terra. L'ho solo per terra. Ma ascolta, e lui? Ci va bene. Calmata. Ok. Va bene. Ok. Sì, per esempio, c'è chi eccede, ci possiamo chiedere la paura che molti hanno rispetto agli immigrati, da cosa può venire? Oppure i nostri genitori. Cosa no? Che sono le cose di lui. Come si chiamano? I nomadi. Lui dice perché sono bui. Allora c'era lei che voleva parlare. Io ho fatto una cosa simile, tipo mi stavano facendo il solletico e ho tirato uno schiaffo. Ma perché avevo paura? Ma ti ha fatto il solletico un estraneo? No, ma sì, ho tirato lo schiaffo e sono rimasti 5 risate. Ma è ancora vivo? No, la foto ricordo. Allora c'è lei che non ha mai parlato. Io ho tirato la mamma perché mi ha messo paura, c'è la maschera d'armi, l'ho urlato e gli ho fatto così. Fatto male. Molto affettuoso. Ok, ora c'è lei. I neri. Ok. No, per il semplice fatto che... Che sono neri. Che sono neri, grazie al Pirone. Ma la stessa cosa... Che sono... Che la persona vede per la prima volta una figura umana tutta nera e dice ehi, perché? Si spaventa. Sì, però quella paura dell'ignoto, di quando non sai cos'è e hai paura di quello che potrebbe essere. Ecco, aspetta, e questo solo un attimo. Ma in questo caso ignoto sembra semplicemente diverso. Sì. Cioè diverso perché ha un altro colore. Noi siamo bianchi, loro sono neri, poi ci sono... ma, insomma, sì, semplicemente sì, persone che vengono da altre parti del mondo. Ma se anche una persona è bianca... E non so chi di voi vive in un piccolo paese, no? Allora, quando arrivano persone nei piccoli paesi? Mai. Sì, non solo mai. Io quando andavo a fare le supplenze, per esempio in Garfagnana, cioè una supplenza in un paesino nuovo che non sono mai stato, mi fermava sempre la polizia. Volevano sapere. Volevano sapere. Voleva sapere chi però fosse. L'hanno fermato perché era siciliano, quindi... No, no, ma loro che ne sapevano. Che ne sapevano, però semplicemente mi vedevano, non è che fossi nero, anche bianco in quel caso. Ecco, perché in quel caso ti ferma? Questa domanda. Cioè, vale perché sei nero o vale perché non ti conoscono? Ecco, questa è un po' la... Sentiamo Marica. C'era, aspetta, tu avevi parlato? Ok. Allora, ragazzi, riprendiamo. Matteo, tieniti qua, dai. No, ok, però non fare confusione. Vai. Ritornando al discorso dei cani, che se è morto non ha paura, non ha paura. Primo è tutto il discorso... del padrone. Okay. Se il padrone è deficiente e tratta il cane in una certa maniera, ma non ti crede. No, fate una bella. Non si interrompe la persona del tuo cane. Allora, io ho il cane che è in strano. Un American Staffer, quindi è un cane, cioè alla fine serve che ci vorrà fare più o meno americano, e un Labrador, è sia stato come poi. Tutti hanno volpe che lo vedono che è grosso, soprattutto quando gli dici che è, che grosso è, quando lo dicono, mette le mani. E, cioè, non è che se vede il cane... Magari glielo chiedi prima se si possa accarezzare. Se il padrone dici no, è no perché ci sarà un motivo. Questi sono i deficienti che fanno la cane di mettere la sua testa. Sì. Poi è normale non che si fa quello. Infatti, il pane è sempre da sotto. Prima sotto e poi sotto. Devi sapere come ci si relaziona. Ma poi alla fine in realtà il cane diventa, a seconda del padrone come lo abitua. Se diventa un cane tipo da... Giusto, attenzione a come dice lei. Sì, tipo è un cane da salotto, magari si difende comunque la casa, però è comunque un cane da più o meno pacifico. Poi dipende se il cane, a seconda della persona, se gli piace o non gli piace. Sì. Se invece è un cane che tipo lo tieni in giardino, lo tieni più per cane da guardia, allora è tutt'altro discorso. Ok, faccio una domanda. Intanto una situazione, ci sono quelli che dicono che se vuoi far diventare un buon cane da guardia, insomma cattivo, lo devi, sì, è un modo diciamo barbaro per fare questo, è tenerli a catena e picchiarli mentre sono a catena. Ok, allora, ma c'è questa parola cattivo che vi volevo dire che è una parola latina, captivus. Significa prigioniero, captivus. Infatti non so se l'avete sentito dire, si dice anche lui è cioè tizio è stato messo in cattività. Per cui poi cattivo ha assunto anche un altro significato nel linguaggio comune. In che modo si possono associare tutte queste cose? Insomma, se qualcuno vuole fare qualche considerazione su questo. Però al di là di questo, se volete intervenire su altro, continuiamo. Un'altra cosa? Vai, dimmi. Aspetta. Ho parlato di cani? No. La memoria di cani. Che altro funziona anche come con i bambini? Sì, con i bambini. Oh, ottimo anche questo argomento. Cosa succede ai bambini? Il rapporto tra paura e bambini. No, potremmo pensare dentro la, insomma, nella vita del bambino la paura. Faccio un esempio di questo tipo. Suonano, mettiamo che la mamma ha un bimbo molto piccolo in braccio, ok? Suonano alla porta. Appena suonano alla porta, la mamma stringe il bambino a sé come a proteggerlo. Sì, brava, fatto il gesto. Ora, questo vabbè è un piccolo episodio che vi racconto così per dire. In questo caso, come il bambino piccolo, secondo voi recepisce o non recepisce il pericolo che viene dall'esterno? Così. Oppure altre domande. Il rapporto tra quello che si vive a scuola e la paura che abbiamo toccato prima. Per un attimo abbiamo toccato questo rapporto qui. Cioè, prima avete detto che la paura a scuola si tramuta in ansia. Sì. Rimane sempre solo ansia oppure può succedere qualcos'altro? Diventa tutto. Frustrazione, rabbia. Frustrazione, rabbia, Impulsività. Ah, ecco, sì. Cioè, a scuola si può piangere. Tristezza, che altro può diventare? Dolore. Cioè avete dolore? Fisico. Ecco, dolore fisico. Sì, questo, cioè il dolore, diciamo, psicologico può diventare una sensazione fisica molto molto sgradevole. Un dolore fisico molto sgradevole. E se volete raccontare episodi di questo tipo, se qualcuno ci ha voglia. Quante volte dipende anche da... Cioè, la parola d'aria. Aspetta. Vai. No, no. Sta per No, vai, dillo ormai, poi sentiamo loro due. Per la paura diventa stress, ansia, impulsività, tante volte naturalmente sei anche suicidato. Ecco. Ah, no, si può, questo rapporto qui si può vedere, cioè ci sono suicidi anche in giovane età, no? E spesso si vede che sono anche legati a un cattivo rapporto con la scuola, anche sì. C'era lei che voleva dire qualcosa. Silenzio, per favore. Tipo io da piccola avevo paura dei coltelli, cioè ho ancora paura dei coltelli, perché, ma non è che tipo i miei genitori mi hanno... Lei sta dicendo aveva paura dei coltelli. Cioè, ho ancora paura dei coltelli. Vai. E tipo come succede con i cani, non è che se educhi un bambino allora vedi... Buongiorno, ciao! Un salve! Ah, ma qui non lo prestate un minuto? No, no, no, appena no, sarà no, no, però finalmente non è il filo. Già, sono troppo geloso. No. Dobbiamo parlare tra quanto con la Maria Luisa. Ma scherzando. Volevo dire una cosa, sì. Sto andando via di corsa perché ce la fa. Beh, solo... Vabbè, dai, posso venire? No. Jump! Siamo solo là. Un attimo. Ora faccio il giro, Raccogli. Ora racconta lei, che è la comunque io dicevo anche no, Vai alla calcio. Diciamo che c'è il fratello di meno.